Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Le cifre sulla disoccupazione, non solo in Italia, ma in generale in tutta Europa, ci spaventano. Non vi ricordo le cifre esatte, ma in alcuni paesi la disoccupazione giovanile supera addirittura il 50%. La crisi soprattutto colpisce i giovani. Molti usciti dalle scuole e appena sfornati dall'università si ritrovano a casa senza far niente, senza studiare e senza lavorare. E quando il lavoro c'è, o è precario o è sottopagato, o entrambe le cose. Stiamo tornando indietro. Eravamo abituati a ben altro. Un tempo c'era sì la miseria, e spesso era miseria nerissima. Si emigrava, si soffriva la fame, ma il lavoro c'era. Nel mondo contadino, che era il nord-est almeno, nascevi e lavoravi. La terra era il tuo lavoro, i campi, le galline, le bestie. Nessuno, o almeno pochissimi, potevano dire di starsene con le mani in mano. Certo, le condizioni erano durissime, i sacrifici fatti sono stati immensi, ma quei sacrifici anno dopo anno si sono trasformati in benessere, in guadagni, in piccole aziende, in lavoro. Case costruite, figli fatti studiare, vecchiaie più o meno serene. E adesso? Adesso sembra che un'intera generazione sia stata tagliata fuori da questa possibilità, da questa logica. E i problemi non sono solo economici, sono soprattutto psicologici e personali. Perché alzarsi la mattina e non sapere cosa fare può distruggerti. È un senso di impotenza e di inutilità che ti può portare alla depressione, può fiaccare in te ogni residuo di coraggio e di voglia di riscatto. E così, oltre ai disoccupati, catalogati, quelli che insomma vanno in cerca di lavoro, crescono nelle statistiche i cosiddetti rassegnati, che non figurano più nelle percentuali di chi un'occupazione la sta cercando, molto semplicemente perché questa occupazione non la stanno più cercando, scoraggiati e ormai senza speranza. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Il lavoro è un diritto fondamentale ed è un bene per l'uomo, un bene utile, degno di lui perché adatto appunto ad esprimere e ad accrescere la dignità umana. La Chiesa insegna il valore del lavoro non solo perché esso è sempre personale, ma anche per il carattere di necessità. Il lavoro è necessario per formare e mantenere una famiglia, per avere diritto alla proprietà, per contribuire al bene comune della famiglia umana. La considerazione delle implicazioni morali che la questione del lavoro comporta nella vita sociale induce la Chiesa ad additare la disoccupazione come una vera calamità sociale, soprattutto in relazione alle giovani generazioni. Il lavoro è un bene di tutti, che deve essere disponibile per tutti coloro che ne sono capaci. La piena occupazione è pertanto un obiettivo doveroso per ogni ordinamento economico orientato alla giustizia e al bene comune. Una società in cui il diritto al lavoro sia vanificato o sistematicamente negato e in cui le misure di politica economica non consentano ai lavoratori di raggiungere livelli soddisfacenti di occupazione non può conseguire né la sua legittimazione etica né la pace sociale. È con noi in collegamento Gianni Saonara, collaboratore dell'Istituto Toniolo. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ci dà una raffigurazione, una descrizione del disoccupato italiano oggi? Purtroppo mi sembra che ci siano disoccupati di diverse tipologie, perché sono persone che hanno perso il lavoro, lo avevano e lo hanno perso, e possono essere persone di molte età. Ci sono persone che lo avevano magari in forma con contratti precari e lo hanno perso, e poi ci sono le persone in cerca di lavoro, quindi credo che il dato più giusto sia quello della disoccupazione allargata, come dicono le statistiche, in particolare curate da Istat. E quindi ci sono molte tipologie, quindi il problema è davvero molto complicato. Insomma, non c'è un disoccupato, ma ci sono tanti tipi di disoccupati e anche di sottoccupati. Sì, esatto, perché evidentemente tutto ciò che è stato fatto negli ultimi, in Italia in particolare, a partire dal 1997, ha prodotto anche tutta una serie di tipologie, probabilmente non previste, che portano a pensare la disoccupazione in termini, ripeto, di grande complessità. E ha parlato dal 97, si riferisce in particolare a certe riforme? Sì, sì, mi riferisco in particolare alla legge Treu, che era stata pensata, io ero in Parlamento all'epoca, quindi posso testimoniarlo in maniera personale e diretta, che era stata pensata per favorire l'occupazione, non certo per favorire la disoccupazione. Non ci si può permettere di votare in Parlamento una riforma che favorisca la disoccupazione, perché sarebbe chiaramente anticostituzionale. Certo. Però ecco, le vicende dalla legge Treu in poi dimostrano che, se è vero che ci sono stati anche delle accelerazioni sul numero degli occupati, è altrettanto vero che il problema della disoccupazione è esploso. Un tempo, e mi riferisco anche a 40-50 anni fa, c'era molto più lavoro e meno ricchezza, però dai 14 ai 18 anni, bene o male, tutti lavoravano, per quanto misero, per quanto piccolo fosse il posto di lavoro. Si iniziava a lavorare, poi da cosa nasceva cosa. Adesso che cosa è cambiato? Ma adesso è cambiato che, diciamo, nel corso degli anni 80 e degli anni 90 si è guardato al lavoro soprattutto come un costo, e questo è legato evidentemente alla globalizzazione economica e all'interdipendenza delle economie. Certamente si è modificato radicalmente il quadro anche europeo, è stata introdotta la moneta unica e l'insieme dei fattori ha portato a considerare il lavoro, ripeto, soprattutto come un costo. Si è persa di vista, a mio avviso, il fatto che invece il lavoro è soprattutto identità, e quindi non può essere esclusivamente calcolato come costo. Identità, come dicevo prima, come dicevo la settimana scorsa, ci si pensa, un bambino pensa di fare l'astronauta, di fare il contadino, di fare il dottore, insomma, quindi anche un po' il ruolo dell'identità, del posto di lavoro, del ruolo che ti dà nella società. Certamente, e questo è stato detto da molti osservatori, nella società veneta aveva davvero costituito qualche cosa, il mestiere, insomma, ecco, qualche cosa di fondamentale, soprattutto, non solo e non tanto per le singole persone, quanto in termini proprio di anche di coesione sociale, di passaggio di valori tra le generazioni. Se salta l'identità del lavoro, la certezza del lavoro, evidentemente anche le altre dimensioni sociali sono molto a rischio. Torneremo tra pochissimo, cercheremo di capire un po' come recuperare questa identità, se ci sono delle soluzioni o se siamo destinati, insomma, a cadere nel baratro, cosa che spero non sia. Torniamo tra pochissimo, carissimi ascoltatori, fra qualche minuto. Il bene di tutti, parliamone. Che cielo stanotte, ci fermiamo qui sotto la luna d'agosto, questa è casa tua, una coperta sopra la sabbia e un tetto altissimo, l'infinito e il mare che ci bagna i piedi, il mare che si muove come un gigante sotto la luna. Ascolta che strano silenzio che fa la vita, i rumori della città non li sento più, e le barche dei pescatori sembrano puntini nell'immenso. E il mare che ci sta parlando, il mare che ci fa paura, da tanto è grande, sotto la luna, sorella luna, sorella luna, sorellina mia, facci sognare. Sole domattina. cerca di chiudere gli occhi che dormiamo qui, sotto le stelle d'agosto che ci fanno ciao. Incrocia forte le dita, buonanotte amore mio, fai dei sogni belli. E il mare suona come una canzone. Il mare che non si vede mai così profondo. Sotto la luna, sorella luna, sorella luna, sorellina mia, facci sognare, sognare, finché non torna il sole. Sognare, sognare, finché non nasce il sole domattina. Poi restiamo qui, ah, la, la, la. Facci sognare, sognare, finché non torna il sole. Sognare, sognare, finché non nasce il sole domattina. Noi restiamo. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Disoccupazione. Ne stiamo parlando con il professor Gianni Saunara, già parlamentare e collaboratore del Centro Toniolo, che è in collegamento telefonico. Grazie per aver accettato anche questa volta il nostro invito. Grazie a voi, rinnovo il ringraziamento. Parlavamo dei mestieri che sono venuti meno, di quell'identità, vediamola anche con tutto il rispetto per gli esodati o per le persone che a 50 anni rimangono senza lavoro. L'emergenza vera, adesso ce lo dicono le cifre, è la disoccupazione giovanile, non solo in Italia. Perché questa valanga di disoccupazione, soprattutto per quelli appena usciti dalle scuole e dall'università? Ma i perché sono stati spiegati e tutto, non abbiamo particolari, come dire, preoccupazioni in termini di studio, perché da noi il Ministero del Lavoro, l'ISFOL, l'ISTAT e gli osservatori regionali, per esempio Veneto Lavoro, ci consentono di capire. E la questione è questa, che si è pensato di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro arricchendo la tipologia il ventaglio delle tipologie contrattuali. In realtà è successo esattamente l'opposto, cioè quando vengono a scadere tutta una serie di contratti assolutamente precari, non c'è il rinnovo, non c'è la capacità di generare nuove opportunità. E quindi questo mette il legislatore, sia italiano sia europeo, sia per quello che possono fare anche le regioni, nella condizione di rivisitare completamente l'impianto, perché evidentemente non ha funzionato, cioè i numeri sono impietosi e non solo in Italia, ma insomma sono fatti di questi giorni, di queste ore, anche in Francia, anche in Spagna, quindi è evidente che è necessario ricominciare da capo. Bisogna tornare al contratto unico? Cioè tempo indeterminato per Io tutti? Io credo che magari con le intelligenze si siano esercitate in questi anni, no? La cosa che non funziona è l'ampliamento di tipologie contrattuali, illudendosi che questo ampliamento, che questo ventaglio generi immediatamente nelle imprese la disponibilità a promuovere lavoro. Così non è, e allora credo che vadano inseguiti sostanzialmente quei modelli che hanno effettivamente generato lavoro, si vada a vedere quali sono le tipologie contrattuali che sono state messe in atto e dopodiché si veda anche di arrivare ha una data linea, perché non è pensabile che ci siano contratti, per esempio, di apprendistato che si prolungano fino a oltre il 30° anno di età, insomma, cioè, voglio dire, con un sotterfugio o con un altro sotterfugio. Non ha senso, non c'è possibilità alcuna che la persona si stabilizzi e pensi al proprio futuro in maniera significativa. Scusi, quali sono questi modelli che hanno avuto successo in Europa? Se ci sono dei settori che, per esempio, le energie rinnovabili o anche un certo tipo di spesa pubblica che ha generato dei contratti, o dei contratti di solidarietà, o dei contratti che facilitano il raccordo tra le generazioni, io credo che in un tempo come questo le buone prassi possono essere veicolate, non dico in pochi istanti, ma sicuramente capite in una manciata di giorni, insomma, no? Perché internet ci consente di conoscere dati, fatti e percorsi. Ora, mi sembra che la riforma che è stata fatta 10 anni fa in Germania, chiamata Agenda 2010, abbia garantito un certo tipo di esiti. Certamente lì entra, insieme con il lavoro, anche la questione, come dire, della stabilità macroeconomica. Però è altrettanto vero che se in Germania ha funzionato, evidentemente c'è qualcosa da imparare, non tanto e non solo in termini di rigidità dei conti, quanto invece anche di percorsi occupazionali. Anche perché, dopo cambiamo un attimo argomento, la Germania ha messo a posto i conti crescendo? Sì, esatto. Ora, ripeto, io credo che sia da studiare, così come sono da studiare fatti che possono essere stati generati da singole imprese, no? Che so io, della telefonia piuttosto che dell'energia, o piuttosto che dalle imprese agricole innovative, che vanno nella direzione della speranza, insomma, non è tutto nero l'orizzonte, e quindi credo che questo possa generare riflessione, ricerca e soprattutto azione, insomma, ecco, cioè non è solo una questione, come dire, statistica, ecco. Un cambio della pressione fiscale, magari passando, gli economisti hanno dato molti suggerimenti, no? Veramente molti suggerimenti, e chi deve decidere, i decisori politici, hanno questi suggerimenti, a partire da quelli di Stiglitz, per passare a Rubini, per passare qui in Italia, per esempio, a quanto scrivono da molto tempo gli economisti del gruppo della Voce. E quindi io credo che, insomma, tutto questo sia disponibile nella disponibilità dell'intelligenza. Vedremo come. E quindi vedremo come le cose si metteranno. Più che parlare, ecco, di ricette, di formule, come abbiamo fatto ampiamente in questa puntata, vorrei concentrarmi su i disagi che provoca la disoccupazione, cioè l'alienazione di una persona che si sveglia la mattina e non sa cosa fare. Come può la società, ancor prima di trovare un posto di lavoro per queste persone, restituire a loro la dignità, che è la prima cosa da cui ripartire? Ma io ho visto che ci sono anche da parte di alcune ASL particolarmente attente a queste cose, e anche da parte di chi segue queste questioni, quindi nell'ambito della medicina del lavoro, ma anche nell'ambito della psicologia, e degli studi e delle ricerche in corso. Guardavo in questi giorni quello che sta facendo, per esempio, l'ASL 3 di Torino. Io credo che anche questi dati portino a una conclusione, e cioè che il lavoro non è un lascito del Novecento, non è il passato, è il futuro, non è una cosa legata a una società che non c'è più. La società che non c'è più probabilmente è quella fordista, no? della grande fabbrica, della tradizione operaia che in parte in Italia e anche in Veneto abbiamo conosciuto. Il lavoro invece non è, ripeto, legato a queste immagini probabilmente appannate, non so se appannate per sempre, ma comunque certamente del passato. Il lavoro invece è il futuro, e quindi va restituita alla persona come soggetto la possibilità di misurarsi con il lavoro, e soprattutto va restituito alla persona giovane la possibilità di misurarsi con il lavoro come dimensione soggettiva e determinante. Vedremo adesso quello che succederà. Dicono che stiamo cominciando a vedere la luce fuori dal tunnel da questa crisi. Speriamo di trovarci da 10 anni e in una società un migliore, dove magari il lavoro si trovi e sia un lavoro appagante. Non siamo più nella società della fabbrica, dove tutti lavorano a ritmi stressanti. Magari si potrà trovare un lavoro più umano. Grazie per essere stato con noi, professor Sonar. Va bene, grazie a voi e buon lavoro. È proprio il caso di dirlo. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, anche la settimana prossima, sempre per parlare di lavoro, è il bene di tutti, parliamone. Potete riascoltare tutte le nostre puntate sul sito di Blu Radio Veneto. Andrea Cantona vi saluta, alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.